L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua come sempre con l'altra Europa, il nostro racconto dell'Europa della cultura, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. Euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, radio24.it, il nostro sito, e poi gli account social, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Come sempre, tante voci, tante storie, tanti protagonisti, oggi anche un paio di compleanni, ma si parte oggi viaggiando e andiamo in tour con Elio e le storie tese. Amore mio, dove sei andata? Andare via da me, ritorna qui. Se te ne vai, io già lo so che impazzirò. Sì che lo so che non è facile convivere con me, ma io migliorerò. Te lo giuro. Io ti prometto che non ti farò più piangere così. Non verserai più calde lacrime per colpa dell'amor. So che tu soffri, so che patisci. So che tu soffri, che patisci, che le pillole ingerisci e poi sparisci, ma però torna da me. 2 marzo, Istituto Italiano di Cultura di Budapest, la prima di 12 tappe nel giro per l'Europa di Elio e le storie tese. Come mai oltre confine? Lo chiediamo direttamente a lui. Buon sabato, Elio. Buon sabato a tutti. Si parte per l'Europa. Come mai questa scelta? Ma diciamo che è l'Europa che lo ha chiesto a Elio Stretese. Noi abbiamo raccolto questo grido, questa richiesta, e volentieri andiamo all'estero, anche perché è un'idea che cullavamo, diciamo un sogno che cullavamo da tanti anni. Semplicemente non l'avevamo mai trasformato in realtà, perché siamo timidi. Ho capito. E negli ultimi tempi invece siamo riusciti, anche grazie al festival, siamo riusciti a vincere questo sentimento e riusciamo ad andare sul palcoscenico, diciamo, un po' meglio, un po' più aperti, con più forza, con più grinta. Certo. E quindi siamo pronti per affrontare il pubblico europeo, che alla fine ci hanno detto sarà costituito principalmente da cervelli in fuga, dei connazionali, quindi. E quindi insomma sarà anche alta aspettativa. È un po' una sorta di Erasmus fuori corso il vostro. Cioè, vi fate... Bellissimo, sì, può essere letto anche, bravo, bravo. Ma quindi vi aspettate tanti italiani, però ci saranno anche degli stranieri. È più forte il testo o è più forte la musica nei vostri brani, secondo te, Elio? Ma in Italia in effetti si è portati a pensare che sia più importante il testo dei nostri pezzi. Noi siamo convinti, ma noi siamo un po' anche dei pazzi, no? Per cui siamo convinti di tante cose che non sono vere, però noi siamo convinti che la musica anche sia interessante, per cui quale occasione migliore di questa per fare ascoltare un po' di musica di Elio e le storie tese a gente che non comprenderà neanche una parola di testo. Eliolesaretese.it, come sempre, il sito di riferimento. Ce l'ha chiesto l'Europa, è stata un po' la tua risposta. Sì, così. Sì, ce l'ha chiesto l'Europa. Quindi, che rapporto hai tu con l'Europa? Cioè con l'Europa ottimo, con le europee ancora meglio. Uh-huh. Ci aspettiamo una grande risposta da parte dell'Europa, che ci ha chiesto di andare in tour in Europa. Noi gli abbiamo detto sì, e adesso ci aspettiamo una grande risposta, quindi grande afflusso di pubblico, grande interesse, grandi articoli sui giornali europei, grandi vendite di dischi. Vogliamo rientrare ricchi in Italia da trionfatori, insomma. Ti faccio ascoltare un brano che dovresti conoscere. Sì. Smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack is please contact many musicians immediately. Questo è Bacio, brano del 1999 e sì. La leggenda dice che forse è il vostro pezzo più famoso all'estero. Sì, ecco, diciamo che siamo un po' nel mito qui. Certamente è il brano preferito da noi, no? Ah, sì. È anche il brano su cui noi avevamo puntato tutto e che invece in Italia ha raccolto poco, quindi noi speriamo che il pubblico europeo invece sappia riconoscere in Bacio il capolavoro di Elio e le Storie Tese. Bruxelles, Londra e Parigi, tre tappe molto significative, al di là del, adesso, al di là dello scherzare. Con che spirito ci si avvicina, per esempio, a Parigi? Con lo stesso spirito con cui noi di Elio e le Storie Tese abbiamo affrontato tutte le nostre avventure, che non sono sempre state solo delle scampagnate, ma ci sono state anche delle cose impegnative, anche dal punto di vista così emotivo. Io condivido quello che ho sentito dire da non so più chi, che la risposta migliore per gli assassini, diciamo, per quelli che hanno compiuto quegli attentati, è continuare a vivere nello stesso modo, per cui penso che da questo punto di vista qua anche noi, che siamo un semplice complesso, però possiamo dare il nostro contributo. L'ultima tappa il 17 a Zurigo, quindi anche, insomma, andata anche fuori dall'Europa di fatto. Sì, bravo. Ci sarà qualche sorpresa, ci sarà sicuramente qualche fan che già vi ha seguito in Italia, che verrà a vedervi anche lì, ci sarà qualche sorpresa? Sì, beh, ci sono già delle analisi che hanno colto un picco di fuga di cervelli dall'Italia in concomitanza con il tour di Elio e le Storie Tese. Sarà una gara di fuga di cervelli. Sì, sarà anche uno spettacolo orribile, tutti quei cervelli molli sotto al palco. Grazie Elio, buon grazie tour. A voi. Divertitevi. Grazie a voi. Ciao. Vi renderemo conto delle imprese. Ciao. Ma sicuramente la stampa ne parlerà. Quindi. ciao, ciao, buon sabato. Ciao. Adesso ci fermiamo, un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. The State of Europeans. A tutti gli appassionati di tematiche europee e politiche dell'Unione. Martedì 28 febbraio alle 16:15 l'Università Bocconi organizza il seminario The State of Europeans, secondo appuntamento per questo anno accademico dell'iniziativa Europeans, giornate Bocconi-Boroli sull'Europa. Europeans è un progetto nato per sensibilizzare i giovani sui temi dell'Unione Europea, rafforzando il dibattito universitario e divulgandone i contenuti al grande pubblico. L'incontro del 28 febbraio verterà sulla presentazione del progetto editoriale The State of Europeans, che prevede la pubblicazione di un volume di approfondimento dedicato ai grandi temi dell'Unione Europea. Tutte le informazioni sul sito unibocconi.it. L'altra Europa. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Una generazione lunga 30 anni, una generazione trasversale, una generazione che è la colonna importante, è la bombola d'ossigeno di questa Europa, l'avete capito, è la generazione Erasmus, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, un compleanno che di settimana in settimana, di puntata in puntata stiamo ricordando. Ma ieri a Roma c'è stato un importante appuntamento, gli stati generali della generazione Erasmus, una giornata in cui fare il punto, in cui è stato fatto il punto di questa avventura, di questo progetto, si è raccontato quello che è stato, ma soprattutto quello che è e quello che sarà, con gli studenti e gli ex studenti che si impegnano a sottoscrivere un documento da consegnare nei prossimi mesi ai decisori politici. Di tutto ciò ne parliamo con l'onorevole Sandro Gozzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli Affari Europei, protagonista della giornata di ieri. Buongiorno Gozzi, buon sabato. Buongiorno a voi, buon sabato a voi. E soprattutto testimone, perché lei ha fatto l'Erasmus, vero? Io l'ho fatto un mese dopo il crollo del muro di Berlino. L'ho fatto il primo gennaio del 1990 e ero a Parigi alla Sorbona ed era veramente un Erasmus da pioniere, come è stato poi detto. Certo. E 30 anni questa generazione di un progetto che non è rimasto fossilizzato, è evoluto, è cambiato, si è modificato. Che cos'è l'Erasmus oggi, Gozzi? Ma oggi secondo me l'Erasmus è l'espressione migliore dell'Europa che moltiplica le opportunità e che dà più libertà. Ed è la più grande storia di successo, cominciata per gli studenti universitari e che, come è emerso anche ieri nel bel dibattito che abbiamo fatto con i ragazzi, si è estesa a tanti altri aspetti della vita di un giovane: il volontariato, lo sport, l'apprendistato, l'avvio di un'impresa. Cioè tutte queste attività fatte da giovani possono essere beneficiare anche dell'esperienza Erasmus, cioè dell'esperienza in un altro stato membro da parte di un giovane imprenditore, di uno studente, di un volontario. E io credo che dobbiamo assolutamente scommettere ancora di più su questo tipo di Europa, che è quella che parla ai giovani, perché i giovani la possono vivere veramente in prima persona. Erasmus Plus, ora un progetto che tra l'altro va al di là dei confini europei. Va al di là dei confini europei perché esiste Erasmus Mundus, che è un po' l'idea di Erasmus applicata al resto del mondo, cioè un'opportunità che dà la possibilità a studenti di altri continenti di venire in Europa, di partecipare a dei master europei studiando in varie in diverse università europee. Io poi ho un legame particolare con Erasmus Mundus, cioè ne sono uno degli ideatori con l'allora commissaria all'istruzione europea Viviane Reding, ma soprattutto la prima riunione che facemmo su Erasmus Mundus e su un'altra iniziativa che è l'e-learning, e si tenne alle 8.30 dell'11 settembre del 2001. Quindi insomma una data significativa e significativo il fatto che si era lì a parlare proprio di integrazione, di apertura, di esattamente di mobilità. Mi ricordo che eravamo in riunione, mi chiamò una prima volta una mia collaboratrice e dissi: no, guarda, non disturbare perché sono ancora commissaria. Ed erano le 8.47, poi alla seconda volta venne, poi andammo nell'altra stanza dove c'era il presidente Prodi e tutto il resto dei gabinetti incollati al televisore. Però noi poi abbiamo continuato e secondo me abbiamo fatto bene, perché anche Erasmus Mundus, cioè l'idea di libertà e di dialogo anche tra culture applicato al mondo, fa parte della risposta a quel terribile momento che è stato l'11 settembre. Certo. E Gozzi, ieri Erasmus Student Network, che è la rete degli studenti Erasmus, Gras Erasmus, che invece è la piattaforma che unisce gli ex studenti, hanno lanciato questa piattaforma comune per raccogliere idee, opinioni, per redare poi un documento da consegnare ai decisori. Questa generazione Erasmus ha dato abbastanza alla politica, e viceversa, la politica è riuscita ad assorbire i contenuti, gli stimoli, le contaminazioni di questi studenti in movimento? Non abbastanza per entrambe le domande. Io credo che le generazioni Erasmus, perché è chiaro che insomma ieri c'erano delle ragazze e ragazzi insomma molto molto molto veramente molto giovani, certo, per me oggi, e la generazione nostra eccetera deve dare molto di più all'Europa rispetto a quello che ha avuto. Cioè noi abbiamo avuto moltissimo dall'Europa, l'Erasmus ti cambia la vita, e l'Erasmus dà grandissime opportunità grazie all'Europa. Io credo che chi l'ha fatto che chi l'ha fatto debba impegnarsi quando torna nel suo ambiente, che sia l'università, il lavoro, l'impresa, la politica, le istituzioni, deve impegnarsi a ridare all'Europa. Lo stiamo facendo, ieri è stato un bel momento per le generazioni Erasmus, per chi lo sta facendo, per chi si impegna per promuoverlo, per chi si impegna a fare rete, come le reti dei ragazzi che hanno fatto l'Erasmus, che sono intervenute ieri, certamente è qualcosa di molto positivo, ma bisogna fare di più. E la politica deve farsi permeare di più da chi l'Erasmus l'ha fatto. Ci sono alcuni esponenti in giro per l'Europa, sì. Vari sono miei amici, perché sono miei coetanei, che ho incrociato all'epoca, che oggi cominciano a essere in posizioni di responsabilità nei governi nazionali, nelle istituzioni europee, e credo che questo serva, perché apre la mente un po' alla politica e soprattutto ti fa capire che ci sono delle partite che puoi giocarti solo nel terreno del gioco giusto, che è quello europeo, altrimenti l'hai perso in partenza. Però anche da questo punto di vista, secondo me, c'è molto più bisogno, ancora più bisogno, di esponenti delle generazioni Erasmus nella politica e nelle istituzioni. Gozi partirebbe domani per rifare l'Erasmus? Assolutamente sì. Grazie davvero, ci sentiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché insomma gli anniversari sono ancora tanti, e di questa Europa che ci piace raccontare nella sua vitalità. Buon sabato e grazie. Grazie a voi. So I packed my things and ran, far away from all the trouble. I cast with my two hands, alone we traveled on. L'Europa della cultura, l'Europa dei principi, l'Europa dei valori. E poi c'è l'Europa della quotidianità, quella che riesce a tradurre fondi erogati in progetti in grado di incidere nel nostro giorno per giorno. Appartiene a questa categoria il progetto Sherpa, che andiamo a conoscere insieme a Lorenzo Marconi, docente di ingegneria dell'automazione all'Università di Bologna e coordinatore del progetto, un progetto che parla di droni, di robot e di soccorso alpino. Buongiorno Marconi. Buongiorno, buongiorno a lei. Che cos'è Sherpa? Sherpa è un progetto europeo finanziato nel 7° programma quadro e che si occupa di robotica a vari livelli per la ricerca e il soccorso. In particolare con l'aiuto del soccorso alpino della Valle d'Aosta cerchiamo di curare l'aspetto di ricerca in ambito appunto di montagna. I robot sono tanti in Sherpa, sia robot volanti, quindi droni, sia robot terrestri, e per robot volanti quello che stiamo cercando di sviluppare è un drone che cerca di localizzare velocemente dispersi, e in particolare dispersi sotto valanghe degli scenari invernali. Quindi non si sostituisce l'uomo, però è un ausilio utile, cioè arriva prima dell'uomo per dare le indicazioni necessarie a ritrovare per esempio dispersi e sapere dove intervenire, quindi. Esattamente, in Sherpa l'idea è che l'uomo, il soccorritore, è sempre al centro, in realtà potrebbe essere in certe occasioni occupato o comunque coinvolto in operazioni rischiose, quindi non sempre in grado di pilotare e supervisionare i robot, devono quindi in maniera autonoma capire quando sono autonomi e quando viceversa sono supervisionati, però in generale l'umano per noi è sempre al centro. 4 anni di progettazione, avete già testato i risultati di questo lavoro? Sì, è un progetto che è iniziato 4 anni fa e adesso siamo arrivati alla fine, quindi è proprio il momento in cui stiamo testando tutte le tecnologie insieme in ambiti molto realistici. Come dicevo prima, il soccorso alpino si sta supportando con prove molto realistiche sul campo e contiamo a valle del progetto veramente di dare delle tecnologie che siano operabili condizioni molto realistiche di valanga e di comunque ricerca e soccorso. Leggevo con nomi anche tipici da montagna, i falchi di pattuglia, gli asini intelligenti, le vespe. Gli asini intelligenti cosa sarebbero? Ma abbiamo inventato un pochettino questi nomi, soprannomi per i vari agenti robotici. Gli asini intelligenti sarebbero dei rover, quindi dei robot terrestri, che sono in realtà asini in quanto hanno capacità di carico, ma sono anche intelligenti in quanto hanno tutta la parte computazionale a bordo, quindi computer che lo rendono intelligente. Uh-huh. Il soccorritore per noi è il busy genius, cioè il genio occupato, in quanto può essere occupato per i motivi detti prima, ma quando c'è è un genio, quindi è al centro della scena, quanto caratterizzato da capacità cognitive di esperienza che sono sicuramente superiori al robot. E Marconi, e l'Europa, oltre ad averci messo parte dei soldi, quale altre relazioni tra stati e tra enti ci sono state? Ma è un progetto fortemente interdisciplinare e che vede tante nazioni con le loro competenze coinvolte. Sono 10 partner, oltre all'Italia sono presenti università del Belgio, dell'Olanda, della Svezia, della Germania e della Svizzera. Ognuno con le proprie competenze, molto trasversali, di robotica, di meccatronica, di intelligenza artificiale. Progetto molto molto ricco, non solo economicamente ma anche in termini di competenza. C'è qualcosa che vi ha sorpreso? Sicuramente quello che ci ha stupito è stato il fatto di riuscire a essere così utili per le attività del soccorso alpino. Sicuramente il prodotto che più è promettente è quello del drone equipaggiato con ARVA per il soccorso in valanga. È stato un elemento di soddisfazione quello di poter contribuire al soccorso alpino con una tecnologia di questo tipo. Marconi, ricordiamo il sito internet per conoscere nel dettaglio il progetto. Il sito internet è www.sherpa-project.eu. Grazie davvero e buon lavoro, buon sabato. Grazie altrettanto. Adesso ci fermiamo, un euro post-it e la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Nuova call. SVE in Turchia a tema bambini rifugiati, svantaggiati o orfani per 2 mesi. Sei alla ricerca di un'esperienza di cooperazione internazionale e sei interessato alle tematiche sociali e di accoglienza? L'associazione no profit GEGED, che si occupa di sostegno sociale per adulti e bambini nella città turca di Gaziantep, cerca ragazzi pronti a svolgere un servizio volontario di 2 mesi presso la propria sede. Data la sua posizione di confine, la città vede una grande affluenza di rifugiati siriani e per questo motivo le famiglie e i bambini svantaggiati sono molti. Obiettivo dell'associazione è dare un sostegno a bambini e genitori e diffondere tematiche sociali e ambientali attraverso workshop, incontri e attività che coinvolgono in prima persona i volontari provenienti da tutto il mondo. Per candidature e iscrizioni cercate SVE in Turchia a tema bambini rifugiati sul sito scambieuropei.info. Candidature entro il 3 marzo. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia per trovarmi sui social network, le nostre bacheche virtuali che aggiorniamo con tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. La prossima storia è una storia che abbiamo trovato sul Gazzettino Veneto, il titolo: Luciano e Ugo da clochard da imprenditori grazie a un bando europeo. È ancora l'Europa con i suoi finanziamenti che incide nelle nostre vite, un titolo curioso che racchiude appunto due vite, due storie, due trame e i loro cambiamenti. Con noi c'è uno dei due protagonisti, Ugo Benvenuto, imprenditore. Buongiorno Ugo, buon sabato. Buon sabato Taddeo, a lei e a tutti gli ascoltatori. Cosa avete combinato? Che cos'è questa iniziativa che vi vede protagonisti? L'iniziativa è il desiderio di trovare un posto di lavoro che qua si fa fatica a trovare nel Veneto, e abbiamo visto che la possibilità era di fondare una cooperativa per fare assemblaggio contro terzi. Siamo andati a vedere le possibilità che c'erano e tra le altre cose abbiamo trovato il contributo europeo. Lei è un ex dirigente, quindi è un ritorno nel suo campo. Sì, io ho fatto dirigente in gioventù, adesso ho 57 anni, poi ho fatto l'imprenditore e le cose non sono andate bene. I primi dal 2006 al 2010 c'è stato un po' un tracollo economico, ma mio, ma anche in generale qua della nostra zona. E trovare, reinserirsi nel mondo lavorativo a livello dipendente è quasi impossibile per uno che non ha una professione. E in questo caso i finanziamenti europei sono stati una sorta di bombola d'ossigeno? No, i finanziamenti europei sono stati una grossa spinta, anche perché sinceramente devo fare i complimenti alla regione, perché il progetto è strutturato molto molto bene, perché la regione dà i fondi, c'è la Confartigianato che ci segue per un anno come tutor, poi la T2I che è una branchia di cioè è un sono dei professionisti che mettono a disposizione la loro esperienza. Noi abbiamo un monte ore da gestire e a seconda facciamo prima 20 ore di corso collettivo e poi chiamiamo a seconda delle nostre necessità un docente a seconda delle materie che ti interessa di più. E tutto ciò è rivolto ad altri senza fissa dimora? La nostra cooperativa, la nostra iniziativa, sì. Noi abbiamo aderito al Fondo Europeo come persone normali, cioè loro non sapevano neanche della nostra situazione, l'abbiamo tenuta nascosta finché non è uscita nella stampa. Però adesso il discorso del lavoro della cooperativa principalmente è rivolto ad altri amici, altri che conosciamo che sono nella nostra situazione. Ci sarà anche qualche inserimento esterno di qualche professionalità di cui abbiamo bisogno, però il 90% saranno senza tetto. Sta bene adesso Ugo? Ha ritrovato speranza nel futuro? Sì, gli ultimi mesi qua mi ha ridato entusiasmo, mi ha ridato ancora di credere nella possibilità, poi sono sicuramente convinto di farcela, perciò sono un po' più sereno, più tranquillo. Dormo ancora al dormitorio pubblico, Ma in prospettiva cioè l'idea è quella di tornare alla vita precedente? Bravo, di farci un reddito tranquillo, un reddito sicuro e poter tornare a una vita normale. E benvenuto, ricordiamo il nome della società, della cooperativa. Allora, è Social Target ed è una cooperativa sociale. Grazie davvero, in bocca al lupo a tutto il gruppo di lavoro. Grazie a lei, Tadia, buongiorno a tutti. Buon sabato. Buon sabato. Europost-it. Young Leaders. A tutti i giovani europei. Il 7 e l'8 giugno a Bruxelles torneranno le giornate europee dello sviluppo, forum europeo che coinvolgerà moltissimi giovani partecipanti nel dibattito sul futuro della cooperazione internazionale allo sviluppo. Nell'ambito delle giornate dello sviluppo, la Commissione europea invita i giovani tra i 21 e i 26 anni a partecipare al programma Giovani Leader, Young Leaders. Tra i candidati saranno selezionati 16 rappresentanti che all'interno di gruppi ad alto livello condivideranno le loro idee ed esperienze e prenderanno parte al dibattito con i principali attori dello sviluppo internazionale, i responsabili politici e gli operatori del settore. Informazioni e iscrizioni all'indirizzo eu-devdays.eu/young-leaders. Told you how I used to be. È una puntata di compleanni quella di oggi, non solo i 30 anni dell'Erasmus, ma anche i 10 anni dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, il decennale che è caduto giovedì scorso, ieri l'altro, e lo festeggiamo insieme a Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Ciao Giacomo, ben ritrovato, buon sabato. Buon sabato a te e a chi ci ascolta. È sempre strano fare i compleanni perché portano un po' a guardare indietro invece che guardare avanti, vero? Sì, quest'anno è il compleanno dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, 10 anni, cifra tonda, anche se è un compleanno piccolo, 10 anni sono pochissimi per una piccola amministrazione, per la pubblica amministrazione, però è un'occasione per fare un bilancio e per proiettarsi in avanti nel futuro. Bilancio positivo, lo dicono i numeri, ma lo dicono anche la visibilità, nel senso che i giovani iniziano ad avere l'agenzia come punto di riferimento. Sì, sono stati 3 anni quelli che io rispondo agli ultimi 3, diciamo, chi mi ha preceduto ha fatto un eccellente lavoro, io rispondo agli ultimi 3, sono stati 3 anni in cui accanto all'attività del programma e le altre attività di agenzia abbiamo puntato molto sulla comunicazione, sulla promozione e soprattutto sul far conoscere le occasioni che l'agenzia offre ai giovani, e adesso cominciamo a raccoglierne i frutti, questo sì. E per il compleanno vi siete fatti un regalo che è una app, di cosa si tratta? Sì, è un regalo che abbiamo fatto all'agenzia, ma soprattutto è un regalo che abbiamo fatto ai ragazzi che incrociano l'agenzia e che partono, i giovani italiani che partono e vanno in Europa grazie ai programmi Erasmus Plus di Gioventù, grazie appunto all'agenzia. Si tratta di una normalissima app come tantissime altre, quindi facilmente scaricabile, già scaricabile, in maniera molto facile e intuitiva, ed è un modo per far stare i ragazzi intanto in connessione tra loro. Ogni anno sono circa 700 i giovani italiani che partono per i servizi volontari europei in tutta Europa e non solo, e altrettanti ne riceviamo, e quindi, come dire, un movimento di ragazzi soltanto legato allo SVE, appunto Cuba 1500 persone. Questi 3 anni i ragazzi coinvolti dall'agenzia sono stati 45.000, quindi uno strumento per farli stare in contatto tra loro, per far crescere l'esperienza, per farli dialogare, magari spostano la stessa città, la stessa regione, lo stesso stato e neanche si conoscono tra loro, e per farli stare in contatto con l'agenzia. C'è anche un servizio di geolocalizzazione per qualsiasi emergenza, Dio non voglia, dovesse capitare, noi potremmo essere le condizioni di sapere dove sono. Quindi una sorta di social network tra tutti quelli che hanno frequentato programmi proposti dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, e immagino diventerà anche uno strumento che sarà megafono delle possibilità e delle opportunità. Sì, un social network tra i ragazzi e tra i ragazzi dell'agenzia, è anche uno strumento per far sapere e conoscere le cose che facciamo. Inoltre ci teniamo, stiamo lavorando anche per far sì che questa app offra dei servizi anche all'estero, rispetto alla città in cui è e rispetto allo stato in cui si trova. Agenziagiovani.it, come sempre il sito, lì si trovano tutte le istruzioni, oltre a, come sempre, tutte le iniziative e le news legate al mondo dei giovani. Grazie davvero Giacomo, ci sembra un'ottima iniziativa, come dicevamo prima, che guarda in avanti. E grazie a te, grazie a chi ci ascolta e grazie anche per gli auguri del decennale. Ci saranno tanti diversi appuntamenti in questo 2017. Ciao Giacomo, buon sabato. Noi ci fermiamo, un Europost-it, il traffico e poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Tirocinio come mediatore europeo a Strasburgo e Bruxelles. Se siete laureati in giurisprudenza, conoscete l'inglese e siete alla ricerca di un'esperienza internazionale, questo tirocinio vi offre una grande possibilità. Il mediatore europeo, ente che gestisce i contenziosi che coinvolgono istituzioni e organismi dell'Unione Europea, offre a laureati la possibilità di svolgere tirocini retribuiti presso le sue sedi di Strasburgo e Bruxelles. I settori di lavoro possibili sono 3: pubblica amministrazione europea, legge e web development. Per partire a settembre 2017 sarà necessario fare domanda entro il 31 marzo. Trovate informazioni e modalità sul sito ombudsman.europa.eu nella sezione Assunzioni. L'altra Europa. Falling to the ground, I was anxious to be found. You can always go home to the safety of your cloud. Don't let go. I need you to hang around. I'm so broke and foolishly in love. Chiudiamo questa puntata parlando di una rinascita. Siamo a Napoli, città della scienza, sappiamo quello che è successo, sappiamo quello che doveva essere, doveva diventare questo polo scientifico, un polo unico nel suo genere proprio per la divulgazione scientifica. C'è stato l'attentato, i lavori si sono fermati, ma si riparte, e si riparte alla grande. Sabato prossimo verrà infatti inaugurato corporeo a questo museo assolutamente innovativo, grazie anche ai contributi europei. Ne parliamo con Vincenzo Lipardi, segretario generale della Città della Scienza. Buongiorno Lipardi. Buongiorno a lei, buongiorno. Che cos'è? Cosa sarà corporeo? Ma devo dire, corporeo, come diceva lei, è la più grande realizzazione fatta con fondi europei degli ultimi anni, dedicati alla cultura, alla conoscenza, dedicata in particolare alla scoperta del corpo umano. Un museo di 5.000 metri quadri, molto bello, molto innovativo, che servirà non soltanto per far divertire i visitatori, giovani, famiglie, ragazzi di varie età, ma anche a dare un po' un'informazione corretta su quella che è la salute, sui corpi, diciamo, sugli stili di vita. Siamo in una fase anche di analfabetismo ritornante, pensiamo al dibattito sui vaccini. Insomma, certo. Corporea è un modo per informare i nostri cittadini e le frontiere della ricerca scientifica, di un viaggio nel corpo, ma è anche un momento appunto per educarsi divertendosi. Si riparte dalla scienza, si riparte dal corpo, si riparte da noi stessi. È una ripartenza questa per Città della Scienza? Ma devo dire, Città della Scienza dopo l'attentato del 4 marzo del 2013 non si è mai fermata. In particolare appunto ha riaperto le dispositivi. Voglio ricordare che Città della Scienza è anche una grande fabbrica di start-up, un luogo di formazione sui punti più avanzati, diciamo, della ricerca scientifica. È una struttura, come diceva lei, un po' unica in Europa, che ha l'obiettivo appunto di coniugare la divulgazione scientifica, che deve essere fatta in modo divertente, perché la scienza è qualcosa, diciamo, di utile nella vita di tutti i giorni, che deve essere appunto compresa dai più, e poi però anche creare, come dire, sviluppo e formazione. Quindi diciamo una grande fabbrica di valore, una grande fabbrica di un'Italia che mi piacerebbe fosse più dedicata alla cultura, all'innovazione, alla internazionalizzazione, insomma, che ripigliasse quel ruolo nel mondo che ha sempre avuto, e che appunto un museo da questo punto di vista può essere un luogo da visitare per apprezzare ciò che fa la scienza, per apprezzare ciò che fanno anche i nostri scienziati, i nostri ragazzi, e per divertirsi. Quanta Europa c'è dentro corporea? Ma guardi, c'è tante Europa, e non soltanto tante Europa, anche tante internazionalizzazioni. Voglio ricordare che il museo avrà tre lingue: l'italiano ovviamente, l'inglese e poi il cinese, perché appunto Città della Scienza negli ultimi anni per l'Italia è stato un po' un ponte tra il nostro paese e l'Europa, e l'Oriente. L'Oriente ormai è diventata appunto la, diciamo, il luogo di sviluppo. I cinesi investono cifre immense in ricerca, innovazione e cultura, e appunto noi dobbiamo costruire un nuovo ponte, va appunto per la ricerca scientifica, ma va anche per i turisti e per i visitatori. Insomma, la Italia è una superpotenza culturale e da questo punto di vista, diciamo, corporea vuole pagare, come dire, vuole avere il suo ruolo e dimostrare ciò che l'Italia fa. Noi avremo circa 250.000 visitatori all'anno, che insomma è una cifra importante. Accanto a corporea voglio ricordare che inaugureremo anche questo bellissimo planetario, una cupola di titanio, ospiterà appunto questo, diciamo, questo nuovo cinema del futuro, dove potrai appunto viaggiare con le stelle e vedere tante cose belle. Voglio ricordare che appunto gli scienziati si sono posti l'obiettivo di Marte come il prossimo sogno dell'umanità, un po' la luna del nuovo secolo. Abbiamo visto proprio oggi, abbiamo visto in questi giorni sui giornali appunto anche che parlano di questa scoperta, di questo nuovo sistema solare con tanti nuovi pianeti. Ecco, il planetario è un po' un modo per sognare, per divertirsi, ma anche per educarsi, insomma, perché appunto quando parli del viaggio nelle stelle, nell'infinitamente grande, è importante sognare, è importante anche avere come dati scientifici importanti. Quindi corporea, il planetario e tante altre attività, Città della Scienza appunto è un po' un sogno italiano che mira a valorizzare quella che è stata un po' la caratteristica del nostro paese, la cultura. Ricordiamoci che il metodo scientifico poi d'altra parte è stato inventato qui in Italia, certo. Galileo Galilei è stato, come dire, il personaggio più conosciuto, ma insomma l'Italia è un paese che prima e dopo ha prodotto tanta tanta cultura, tanta scienza, e insomma essere innovativi e corporea credo che sia la dimostrazione che poi si possa e si debba essere innovativi anche nella comunicazione, nella divulgazione, no? Perché... è così, e soprattutto cerca di fare anche un'altra cosa, diciamo, nella società moderna in cui siamo così bombardati da informazioni che alla fine noi non sappiamo nulla, mira a costruire un corretto rapporto tra la scienza e la società, quindi divertimento, informazione scientifica, progettazione e pensiero di cose importanti per il nostro paese, perché appunto l'Italia è un paese che ha il diritto dovere di ricominciare a produrre buona cultura, a portare i nostri ragazzi ad avere voglia di impegnarsi nella scienza e quindi un po' costruire il futuro. Insomma, l'obiettivo di corporea è molto ambizioso, di essere un tassello di un'Italia diversa, un'Italia più civile, un'Italia più che guarda al futuro. Lipardi, la settimana scorsa avete avuto anche la visita del commissario europeo, vero? Sì, questa è un'altra cosa molto bella, è venuta dal commissario Corina Cretu, che è il commissario europeo appunto agli affari regionali e fondi europei, e devo dire è bello vedere come questa signora, vedendo l'opera realizzata, il sorriso sul suo viso e anche, diciamo, il riconoscimento di un lavoro fatto, insomma, no? Vedere appunto una grande opera che, ripeto, è un'opera europea, perché appunto fatta non soltanto con fondi europei ma nello spirito europeo, perché l'Europa poi per noi deve essere appunto questo: cultura, linguaggio comune, scambio. In ogni caso, già oggi Città della Scienza ospita tanti ragazzi e tante persone che vengono dall'Europa. Con corporea, diciamo, appunto un nuovo tassello d'Europa e, ripeto, un nuovo ponte anche verso l'Oriente, insomma una bella pagina di storia del nostro paese. Cittadellascienza.it, sabato prossimo l'inaugurazione, sarà una grande festa, poi corporea con già migliaia di prenotazioni, quindi sarà un bel viaggio all'interno di Città della Scienza. Grazie Lipardi, buon lavoro. Vi aspettiamo tutti. Assolutamente. Grazie. Buon sabato. Europostit. Aperte iscrizioni per progetto europeo U2 Tell EU. Sei un giovane italiano di seconda generazione e hai genitori provenienti dai paesi dell'ex blocco comunista? ANCI Toscana è capofila di un progetto europeo dedicato alla ricerca sulla memoria storica dell'Est Europa. Il progetto nasce affinché le seconde generazioni si confrontino con il passato e le famiglie per ricostruire una memoria comune, valorizzarla e inserirla in un contesto contemporaneo di cittadinanza europea. A Firenze sarà organizzato un workshop tra marzo e giugno, che avrà come obiettivo la creazione collettiva di un archivio audiovisivo di testimonianze sulla storia dei paesi dell'Europa dell'Est nel secondo Novecento. Sono invitate a partecipare tutte le persone che abbiano una storia da raccontare. Iscrizioni all'indirizzo ancitoscana.poldedi.com/s/u2tellEULab. Questi sono i nostri Europost-it. Come sempre vi ricordo che potete ritrovare sul nostro sito radio24.it, dove potete anche scaricare il podcast della puntata. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'Altra Europa @radio24.it invece è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete segnalarci iniziative, progetti, questioni europee, farci anche critiche. Siamo qua e siamo ben lieti di ricevere i vostri messaggi. Come sempre, l'appuntamento è alla prossima settimana. Ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.